24 mattino di Alessandro Milan. Buongiorno, eccoci qui cari ascoltatori, sono le 7:21 minuti e saluto il nostro Carmelo Lauricella in regia. Dove hai lasciato l'Alpino? Sei andato a recuperarlo? A Bolzano? Vabbè, è rimasto a Bolzano. No, è tornato il nostro Peter Bescapè. Ma saluto Carmelo Lauricella, sarà con noi questa settimana in regia e saremo in diretta fino alle 9. Oggi avremo ospite per parlare di politica Francesco Storace, il leader della destra, questo alle 8:20. Poi parleremo alle 8:30 di Bernardo Provenzano, ebbene sì, è colui che al carcere 41 bis forse ha tentato il suicidio, forse una messa in scena, chi lo sa, ma insomma il tema che si ripropone in questi casi è l'uomo considerato l'emblema della mafia in Italia, al 41 bis, al carcere duro, che si lamenta perché non è curato adeguatamente. Parleremo di carcere dunque, di Bernardo Provenzano. Tutto questo lo faremo alle 8:30. Ora da cosa dobbiamo partire? Come sempre dalla lettura dei quotidiani che trovate in edicola. È lunedì 14 maggio, intanto uno sguardo ai titoli. Il Sole 24 Ore nell'edizione del lunedì apre sul tema della spending review. Appalti, una stretta sulle regole. Questo è il titolo di apertura. Tra l'altro vi segnalo che oggi in regalo con il Sole 24 Ore ci sono tutte le risposte ai quesiti dell'IMU, la tassa che si sta avvicinando, la tassa più odiata dagli italiani, sull'abitazione principale, le pertinenze e le locazioni, tutte le domande vostre e tutte le risposte con i chiarimenti degli esperti, oggi in regalo tutte le risposte ai quesiti più importanti relativi a questa tassa. Poi tutti gli altri quotidiani aprono incredibilmente, così è lunedì, in maniera unanime, sulla notizia del giorno evidentemente, le elezioni in Germania nel Nordreno-Vestfalia, che hanno visto la sconfitta di fatto del partito di Angela Merkel. Allora, Corriere della Sera, Merkel ora è più debole. Per Repubblica, crolla la Merkel, bocciata l'austerity. La Stampa, Germania, tracollo Merkel. Il Giornale, figura di Merkel. E così ci si esercita anche. Il Messaggero, Germania, crolla la Merkel. Il Secolo XIX, Germania, tracolla la Merkel. L'Unità, Merkel perde in casa. Il Giorno, il tracollo. Ecco, questa è la carrellata dei titoli, le aperture tutte dedicate a questo, lo vedremo ovviamente più avanti. Ora però voglio partire da che cosa? C'è una polemica già sui giornali, io l'aspettavo, l'attendevo sui giornali, tipicamente italiana, tipico giornalismo italiano, la polemica su Roberto Saviano, che oggi inizia con sulla 7 con Fabio Fazio il nuovo programma. Ed eccolo qui, intanto prima non una polemica, ma Sergio Rizzo racconta a pagina 14 del Corriere della Sera una curiosità. Come si intitola il programma di Fazio e Saviano? Quello che non ho. Ebbene, la Calabria in TV con Fazio, titola Sergio Rizzo. È una vicenda curiosa, una classica iniziativa di frontiera, quella nata qualche anno fa. Un'iniziativa che al massimo finiscono nelle cronache dei giornali locali, sui blog di periferia, se non fosse stato questa volta per il conduttore Fabio Fazio e lo scrittore Roberto Saviano, perché questa iniziativa nata in Calabria qualche anno fa è stata ribattezzata proprio così, quello che non ho. È nata nel 2010 a Reggio Calabria dopo l'attentato a un giudice antimafia, Salvatore Di Landro, con l'obiettivo di denunciare quello che manca in una città dove manca praticamente tutto. Solo che racconta Sergio Rizzo sul Corriere della Sera da quando ovviamente il titolo della trasmissione scelto da Fazio Saviano è lo stesso di questa iniziativa, di questo blog nata qualche anno fa, si sono moltiplicate di smisura i messaggi che arrivano a questo blog di periferia. E le segnalazioni arrivano da tutta Italia, anche dalla provincia di Verona, gente che vuole segnalare, evidentemente pensando di segnalare la trasmissione di Fazio Saviano, in realtà segnalano a questa associazione quello che non ho di Reggio Calabria tutto quello che vorrebbero avere nella propria città e che non hanno. E dopo il battesimo del programma, dunque sito inondato da messaggi su ciò di cui si sente l'assenza. Vabbè, questa è la curiosità legata alla trasmissione, ma poi le polemiche. Oggi vi segnalo pagina 2 del giornale: Saviano, il guru anticamorra diventato fenomeno da salotto, un'intera pagina di Giancarlo Perna, ma soprattutto una vera e propria invettiva di Giuliano Ferrara in prima pagina del Foglio, il suo tradizionale editoriale del lunedì dedicato proprio a Roberto Saviano. E già il titolo è emblematico: qualcuno deve pur dirlo, ora basta con Saviano. E sentite come ne parla e ne scrive Giuliano Ferrara. Saviano al posto di Bocca, uno che non ha mai detto nulla di interessante, che non ha un'idea in croce, che scrive male e banale, che parla come una macchinetta sputa sentenze, che brancola nel buio di un generico civismo, che è stato assemblato come una zuppa di pesce retorico a partire da un romanzo di successo, si prende la rubrica di un tipo tosto che di cose da dire ne aveva fin troppe. Saviano a New York, come un brand scassato alla ricerca della mafia già scoperta da Puzo, Coppola, Scorsese, una specie di lapo in cerca di marketing sulle orme di Zuccotti Park, tranne che lapo fa il suo mestieraccio. Saviano in ogni appello, dalla lotta al traffico di cocaina, ai diritti dei gay, a chissà che cos'altro ancora. L'ho ascoltato al Palasharp un anno e mezzo fa, via web, un disastro in colore, uno fuori posto perfino in un luogo in cui si faceva mercimonio delle idee peggiori della società italiana. Saviano non sa fare niente e va su tutto, è di un grigiore penoso. E i madonnari che lo portano in processione dalla mattina alla sera gli hanno fatto un danno umano, civile, culturale, professionale, quasi bestiale. I Moccia, i Fabio Volo, hanno scritto anche loro libri di successo. È un guaio che ti può capitare, una brutta malattia come il premio Nobel e altre scemenze. Ma nessuno li ha trasformati in totem. Non si prestavano, non erano all'altezza. Saviano invece è all'altezza di questa mondializzazione del banale, di questa spaventosa irriverenza verso l'allegria, l'eccentricità dell'intelletto come nutrimento della società e della vita, di quest'orgia del progressismo finto sexy. E insomma, conclude Ferrara questa vera e propria invettiva, ma via, qualcuno deve pur dirlo, facciamo un comitato, qualcosa di sapido e di cattivo, qualcosa di rivoltoso e di ribaldo, basta con Saviano. E vabbè, non è ancora iniziata la trasmissione, ma le polemiche già abbondano. Voglio dare questa segnalazione veloce prima della pubblicità. È tempo di lauree inventate. Ma il trota non c'entra, il trota in questo caso non c'entra. Si è inventato la laurea in informatica e l'amministratore delegato di Yahoo costretto alle dimissioni. Lo trovate su Repubblica, pagina 22. È stato travolto dallo scandalo Scott Thompson, amministratore delegato di Yahoo, che era stato chiamato a gennaio a sostituire Carol Bartz al vertice del motore di ricerca californiano, uno dei più famosi al mondo, ma è finito al centro di attacchi e polemiche perché si è attribuito, inventandosi, una laurea in informatica. E a questo punto anche lui, sotto i colpi tra l'altro del capo di un agguerrito hedge fund investor, Third Point, che possiede il 5,8% delle azioni di Yahoo, ha detto: tu amministratore delegato, ti sei inventato una laurea in informatica, non va mica bene. E l'aveva presa, tra l'altro, se l'era inventata negli Stati Uniti, mica è andata a prenderla in posti un po' strani oltreoceano, tipo l'Albania. L'aveva presa, così diceva, era falso, e quindi si è inventato la laurea in informatica, l'amministratore delegato di Yahoo costretto alle dimissioni. Eccoci qua allora alle 7:36 minuti nella lettura dei giornali. Allora, come detto, tutti i quotidiani aprono con la notizia delle elezioni regionali di fatto in Germania, elezioni in Nordrhein-Westfalia che hanno visto la sconfitta netta, questo è il segnale politico più interessante anche per l'Italia e per l'Europa, la sconfitta netta della CDU di Angela Merkel, e dunque è tutto un titolo di tracollo, schiaffi, figura di Merkel, addirittura è il titolo di apertura del giornale. Schiaffo alla Merkel dal land più popoloso in Germania, per esempio leggo dalla cronaca di Paolo Lepri a pagina 3 del Corriere della Sera: Una doppia sconfitta per Angela Merkel. Gli elettori della Nordrhein-Westfalia hanno fatto precipitare il suo partito, la CDU, ai minimi storici del dopoguerra. Questo è il segnale più interessante, cioè al 26,3%. Hanno confermato la fiducia invece al governatore uscente, che è una donna, Annelore Kraft, che ha perseguito una politica completamente diversa dal rigore della Merkel, vale a dire più investimenti nelle infrastrutture, nell'educazione, nell'assistenza familiare, un approccio graduale alla riduzione dell'indebitamento nel land più popoloso della Germania, che tocca una cifra di 180 miliardi di euro. Dunque ha vinto la SPD, che la sinistra balza dal 34,5 al 39,1%, il tracollo di Angela Merkel. Tutti i giornali ovviamente parlano dei possibili riflessi di questo drastico calo di voti e di consensi per Angela Merkel e del suo rigore in vista anche dell'Ecofin che si terrà tra oggi e domani e in vista anche delle nuove politiche europee, anche se c'è da dire che forse la notizia che più preoccupa, più interessa e più è trattata dai giornali anche con timore anche per i suoi possibili sviluppi è la situazione della Grecia, giusto per rimanere in ambito europeo e guardare al di là dei nostri confini. La Grecia è ormai in un vicolo cieco, titola a pagina 6 Repubblica, governo di unità, non c'è intesa. Le speranze ormai di dare un nuovo governo alla Grecia si sono ridotte ieri sera al lumicino. Il Presidente della Repubblica ha incontrato i leader dei partiti entrati in Parlamento per provare a mettere insieme in zona Cesarini un esecutivo di emergenza, di unità nazionale, ma nessuno si è mosso dalle proprie posizioni. E dunque, dopo le ultime elezioni che hanno segnato una frammentazione del voto, e dopo i vari tentativi di incaricare per la formazione di governo varie forze politiche, ormai c'è un nuovo vertice oggi, ma le speranze sono ridotte al lumicino e si prevede la possibilità di andare nuovamente ad elezioni. Ma tra l'altro quello che si prevede soprattutto è un rischio default della Grecia, che per molti economisti è ormai una questione di tempo, di quando, non di se. Vi segnalo per esempio su questo anche con la possibilità che Atene esca dall'euro, vi segnalo su questo l'intervista che il giornale fa a pagina 8 all'economista Alberto Quadrio Curzio. La Grecia è un caso limite, dice Quadrio Curzio, si sapeva anche che l'Unione Europea non aveva controllato i conti di Atene, io avevo invitato a non sottovalutare la crisi auspicando che l'intervento europeo fosse rapido e secco. Riguardo però alla possibilità del default greco, alla domanda che succede se Atene fallisce, lo dica per titoli, chiede l'intervistatore Roberto Scafuri. E sentite la risposta dell'economista Quadrio Curzio. Succederà questo: isolamento economico e finanziario sui mercati internazionali, svalutazione del 50% e oltre della dracma, corsa agli sportelli, chiusura del sistema bancario, sequestro della moneta forte da parte dell'autorità statale, i mercati pretenderebbero il pagamento delle merci essenziali, tipo i prodotti energetici con valuta pregiata, si creerebbe un mercato parallelo del cambio in un'economia di comando e in più inflazione galoppante. Insomma, una Repubblica di Weimar, non escludo, in alcune aree, come accade già ora, tornerebbe il baratto. Disordini sarebbero all'ordine del giorno con esiti imprevedibili. Insomma, questo ciò che profila Alberto Quadrio Curzio su un possibile default della Grecia e la possibile fuoriuscita di Atene dall'euro. In tutto questo, per venire invece ai nostri confini, ieri Mario Monti era ad Arezzo. Un Mario Monti che ha parlato di un'Italia in cui le tensioni sociali sono comunque a livello molto alto. L'Italia è segnata da forti tensioni sociali, nessuno accetta volentieri sacrifici e le restrizioni economiche, così ha detto il Premier. Si tende a diffidare degli altri, che sembrano sempre meno colpiti o più fortunati. L'insicurezza genera ripiegamento su se stessi, frustrazione, rabbia, aggressività al bar, per strada, a scuola, in fabbrica. Ma se continuiamo a guardarci con reciproco sospetto, si alimenta la paura. Insomma, questo è lo scenario dipinto di come è l'Italia oggi da Mario Monti, che però dice, mettendo a tavola forze politiche contrapposte, ha detto anche: evitiamo che le difficoltà da economiche diventino culturali. Ha detto anche: sono contento del ruolo che mi è toccato svolgere in questi mesi. Così racconta almeno Ugo Magri nel suo resoconto della giornata di Mario Monti a pagina 6. Questo forse anche per fugare i dubbi sulla presunta sua amarezza che qualcuno ha raccontato negli ultimi tempi. In realtà un Mario Monti che dice: ora rilanciamo e rilanciamo il paese. Tra l'altro è previsto in serata oggi un vertice tra lui, Catricalà, sottosegretario, e il viceministro dell'economia, quindi il suo viceministro Grilli, per cercare di rilanciare su alcuni temi importanti. Alcuni temi importanti che vedremo tra poco, perché prima voglio fare una parentesi sulla politica. Ve lo dico solo così, dedicherò pochissimi secondi, perché la politica, il Parlamento, eccetera, è tutto impegnato, pare, a discutere sul tema fondamentale, sentitissimo da tutti gli italiani, della riforma elettorale. Cioè già il tema, spero si sia colta l'ironia, è estremamente sentito, proprio gli italiani non parlano d'altro. Certo, la riforma elettorale è importante, ma già è noioso dibatterne, già è noioso che cercare di districarsi tra i 500 modelli tedesco, spagnolo, con mix francese, eccetera. Poi soprattutto uno legge, come sulla stampa Carlo Bertini a pagina 7, uno dice: almeno è interessante la riforma elettorale, se l'hanno fatta, la fanno così, uno legge, si informa e capirà come voteremo l'anno prossimo, con che modello. No, invece uno legge, dice, il passo del gambero della legge elettorale, cioè ne discutono nelle segrete stanze dei partiti, racconta Bertini, non si fa mistero che il terremoto di queste amministrative ha già provocato il passo del gambero della legge elettorale. Un cantiere che si è bloccato dopo il primo esito delle elezioni. Quindi, argomento noioso, che non interessa, se non ai tecnici della politica, interessa a pochissimi, e in più si viene a scoprire che c'è il passo del gambero, cioè c'era un tentativo di riavviare il discorso. C'è Angela Finocchiaro che sul Corriere della Sera fa un'intervista dicendo: dobbiamo fare presto, entro un mese. Questa è l'altra frase che si sente nella politica, un giorno sì e un giorno sì, e invece siamo al passo del gambero, cioè il cantiere della riforma elettorale, noioso, è anche bloccato. L'altra notizia politica, forse più interessante, che trovate sui giornali è questa, riguarda la Lega, che sta valutando, così almeno per qualche frase detta da Roberto Maroni, l'addio a Roma. Cioè, che vuol dire l'ipotesi, ma oggi c'è un consiglio federale della Lega, quindi qualcosa si saprà di più oggi pomeriggio, l'ipotesi che i leghisti non si candidino al Parlamento l'anno prossimo alle politiche. Tanto, ha detto Maroni, alla Lega interessa più lavorare sul territorio. E dunque la Lega valuta l'addio a Roma, così titola pagina 11. La stampa, ma anche il Secolo XIX, pagina 4, Maroni minaccia l'Aventino, non torniamo in Parlamento. Venendo alle cose serie, di cui discuterà anche Monti con Grilli questa sera, il tema potrebbe essere quello delle tasse, potrebbe essere quello di Equitalia, Monti giovedì andrà da Equitalia, e potrebbe essere quello del cosiddetto decreto sblocca crediti, che potrebbe interessare davvero molte imprese italiane, tra poco dopo l'informazione sul traffico. E allora questa sera Monti, Grilli, Catricalà, c'è grande attesa soprattutto nel mondo imprenditoriale, piccole e grandi imprese, per cercare di capire se vedrà alla luce questo cosiddetto decreto sblocca crediti. La situazione è ben spiegata dal Corriere della Sera, pagina 12. Un piano per allentare la pressione su Equitalia con le compensazioni. Giovedì è il giorno in cui Mario Monti andrà a Equitalia per cercare di non portare solidarietà, ma per ribadire, insomma, che la lotta all'evasione fiscale è uno dei punti fondamentali di questo paese in un momento di tensione sociale molto forte. Ma si spera che i vertici di Equitalia sperano che Grilli e Passera firmino in questi giorni, tra oggi e giovedì, proprio i decreti per contrastare che cosa? Quel cortocircuito, spiega bene il Corriere della Sera, di magari un piccolo artigiano, un commerciante che da un anno aspetta il pagamento di una prestazione a un ufficio pubblico e contemporaneamente si trova a dover pagare una cartella esattoriale in tempi rapidi, altrimenti interessi e sanzioni cominciano a correre. È quello la situazione in cui si trovano moltissimi imprenditori, appunto, che aspettano soldi per le commesse fatte alla pubblica amministrazione che non arrivano mai, e intanto però devono pagare puntualmente a ogni scadenza del mese le tasse. Ebbene, anche il secolo XIX racconta che tutto è pronto. A pagina 5, il decreto sblocca crediti è pronto, e per incassare finalmente i crediti vantati verso le pubbliche amministrazioni centrali dello Stato, ministeri, INPS, INAIL, in tutto sono 130 diverse istituzioni, le imprese fornitrici potranno finalmente seguire una procedura accelerata, tutta elettronica, saltando i notai e scontando in banca le fatture. Questo sarebbe un qualcosa di molto atteso, rivoluzionario, e viene dato per certo nei prossimi giorni, potrebbe essere una buona settimana dunque. Il nuovo sistema è stato messo a punto venerdì, la firma del decreto ministeriale da parte di Vittorio Grilli è questione di ore, sicuramente verrà posta entro la settimana, così dice il secolo XIX. Non resta che attendere. Intanto è tempo di tasse, ovviamente. Beh, straordinario oggi la pagina del Sole 24 Ore, la pagina 7. Leggo solo il titolo, no? La RC Auto. Le province rincarano al massimo l'RC Auto. Le province... è uno studio sul Sole, appunto, di Giuseppe Latour e Francesco Nariello, che prendono in esame tutte le province italiane, gli aumenti dell'RC Auto provinciale. Praticamente non esiste provincia, sono pochissime quelle che non l'hanno aumentata, fino al massimo il 16%. Poi uno dice che le province non servono, eh? Servono. Vedete come servono? Servono. Aumentate tutte, andate a studiarvele, sono poche quelle che non lo hanno fatto, eh. Aosta ha fatto calare addirittura l'RC Auto del 3,5%, Bolzano, Firenze, tutte le altre, quasi tutte hanno applicato il massimo dell'RC Auto, ovviamente per contrastare la mancanza di fondi che dallo Stato centrale arrivano alle province, quindi siccome gli hanno tagliato il flusso di denaro da Roma alle province, le province cosa fanno? Aumentano l'RC Auto. Togliessimo le province, no vabbè, insomma, questa è demagogia, poi dicono che è demagogia pura. C'è anche ancora molto sulla spending review, trovate vari temi, si pensa di intervenire sugli appalti, per esempio fa sapere il Sole 24 Ore a pagina 3, sulle commesse pubbliche. La sanità è un altro dei temi nei quali ci sono maggiori sprechi, a pagina 9 del Messaggero c'è scritto che sarà soprattutto sulla sanità che si concentrerà la nuova sfida alla spesa pubblica. C'è però anche, ve ne devo dar conto, tutto un tema legato all'allarme terrorismo dopo l'attentato all'amministratore delegato di Ansaldo Energia di Nolfi, con l'ipotesi anche di schierare l'esercito, l'ipotesi di un clima pesante. Il clima pesante è definito per esempio dall'amministratore delegato della Fiat Sergio Marchionne ieri al Salone del Libro a Torino, al Salone Internazionale, c'è un clima pesante, ha detto Marchionne. Ci sono anche le polemiche soprattutto riguardano Lucia Annunziata, che ieri su Rai 3 in mezz'ora ha ospitato Sergio Segio, ex di Prima Linea, autore, ha scontato 22 anni per gli omicidi dei giudici Emilio Alessandrini e Guido Galli. L'ex terrorista Segio in TV e il PDL si infuria, l'Annunziata dice trasmissione equilibrata, il giornale fa un'intera pagina, il terrorista spiega l'eversione su Rai 3 e scoppia la polemica. Alla domanda sull'esercito dipenderà, e sul rischio di aumentare le tensioni, dipenderà dalla risposta che darà lo Stato, ha detto Sergio Segio. Mettere in campo l'esercito e militarizzare il territorio come in Val di Susa è il modo migliore per alimentare il terrorismo. E su questo, insomma, sono state le grandi polemiche. Vi segnalo su questo anche in prima pagina della Stampa un intervento di Agnese Moro. La domanda a cui Curcio non risponde, la figlia di Aldo Moro, scrive: sono molte le domande che la vicenda del ferimento del dirigente Adinolfi porta con sé. La prima si poteva prevedere, e poi a questi risultati hanno portato 10 anni di indagine sulla Federazione Anarchica Informale. Cosa si sta facendo per proteggere coloro che rischiano di essere i prossimi obiettivi? Cosa vogliono davvero questi anarchici? Ma, scrive Agnese Moro, mi ha un po' sorpreso che in un contesto così ricco di interrogativi Repubblica abbia considerato importante pubblicare un'intervista a Renato Curcio, tra i fondatori delle BR.

quando il fisco priva i cittadini, si può almeno protestare? Protestare sì, questo sì. Ecco appunto, è quello che stiamo facendo. Noi il 3 marzo abbiamo fatto a Roma una grande manifestazione con 20.000 persone che hanno protestato civilmente. Allora, nello stesso momento c'era i Notav che protestavano in un'altra parte della città facendo incidenti. I nostri non li hanno fatti. Il prossimo 9 giugno noi manifesteremo a Napoli per mettere in discussione il rapporto tra Italia, Europa ed Euro. Spero che anche in che almeno in quell'occasione ci sia un'informazione non faziosa. Del resto decideremo i contenuti della nostra nuova strategia alla direzione che faremo il 26-27 maggio. Noi siamo un partito serio, non siamo un gruppo estremista. Senta Storace, ma lei ovviamente appoggiare no, perché l'ha già detto, no alla violenza assolutamente, ma lei li capisce anche i gesti di esasperazione che hanno portato poi a delle azioni anche nei confronti di Equitalia un po' più violente? Io faccio parte di un'organizzazione politica che invita i cittadini a non rassegnarsi, e il suicidio è una forma drammatica, tragica di rassegnazione. Io credo che bisogna invece lottare, combattere contro questo sistema. È suicida anche rifiutarsi di andare a votare, perché si lascia il potere nelle mani di quelli che si contestano. Io credo che ci siano forme di politica che possano far uscire i cittadini dalla rassegnazione. Del resto però i motivi di rabbia ci sono. Aggiunga alle questioni di cui si parla su Equitalia il costo della vita, il costo del lavoro, le questioni legate al rapporto tra crediti e debiti tra imprese e amministrazione pubblica, le questioni legate al rapporto con le banche in generale. Cioè ci sono tante vicende che puntano all'esasperazione dei cittadini e sulle quali non vedo traccia di soluzione da parte di chi. Ma per esempio, se arriva nei prossimi due giorni, come oggi dicono i giornali, questo decreto sblocca crediti, cioè quello che lei ha detto, un'azienda che ha crediti con l'amministrazione li può scontare e non pagare le tasse, questo potrebbe essere un'azione del governo invece che a cui lei può applaudire? Per una parte di quelli che hanno crediti nei confronti dello Stato sì, però non è che si risolve il problema, stiamo parlando di una minuzia rispetto al grande problema dell'Italia che ha di crescita. Vede, sul mio tavolo, e appunto non sono uno di quelli che stanno nella telecamera, si affollano, si accumulano i curriculum di chi cerca lavoro. Il problema dell'Italia è lì, è nella mancanza di crescita. Ma Monti, davvero no? Cioè, è colpa di Monti, è colpa dei governi di prima, è colpa della politica che in 20 anni ci ha portato a questa situazione, alla quale anche lei ha preso parte, non adesso né in Parlamento, oppure dobbiamo tutti gettare la croce addosso a Monti? Beh, io in effetti sono stato 8 anni in Parlamento e c'è gente che pensa di starci da 30 anni per i prossimi 30, credo che ci sia una differenza di responsabilità enorme. Detto questo, vorrei che si comprendesse che Monti sta lì a eseguire un compito dettato da altri, che sono le grandi centrali finanziarie e economicistiche di questo paese. Ora, io sono d'accordo che si devono fare i sacrifici quando è il momento, ma per fare i sacrifici li si indicano ai cittadini e si dice ai cittadini prima di adempiere al mandato: bisogna fare questo, mi dai i voti per farlo? Ecco, quello è un metodo corretto di procedere. Andare al governo senza avere il voto popolare, anzi contraddicendo il mandato popolare, imporre sacrifici è la strada più sbagliata, è la strada per incattivire i cittadini. Allora, due parole conclusive su Beppe Grillo e il voto a Beppe Grillo. Cos'è? Protesta, antiprotesta, politica, antipolitica? È un voto di protesta, non c'è dubbio, e sbaglia chi lo demonizza. Chi vota Beppe Grillo è una persona che va comunque rispettata. Io spero che ci sia più spazio per indirizzare il voto di protesta verso forze politiche serie come la mia. Non c'è bisogno, diciamo, di chi fa il comico. Vabbè, quello uno i voti poi se li deve prendere, poi alle urne uno va a votare. Se avessi la sua comunicazione, oggi è quasi un miracolo. Vabbè, no, non esageri. Noi sentiamo che tutti. Che sono spesso alla radio e televisione. Vabbè, ma io invito tutti invece. Come lei, sì, oggi La Santanchè, perché la politica ci si dimentica in Italia, ma la Santanchè le ultime elezioni fu candidato premier per la destra, cioè il vostro candidato premier, ma adesso pensa che potrebbe diventare il candidato premier per il PDL, però... L'importante è che le facciano sottoscrivere una carta che per le 48 ore successive al voto mantenga le stesse promesse fatte nelle 48 ore precedenti. Va bene, la ringrazio con questo, buona giornata a Francesco Storace, leader della destra, e noi ci fermiamo per la pubblicità e il meteo. E poi di che parliamo oggi? Parliamo nel nostro approfondimento di Bernardo Provenzano. Ebbene sì, il padrino, lui, il capo della mafia. Qualche giorno fa ha tentato il suicidio, questo almeno c'è scritto sui giornali, forse ha simulato, forse no, ma al di là del fatto di cronaca, che istinti vi suscita l'idea di un Bernardo Provenzano con i suoi familiari, il suo avvocato che sarà il nostro ospite, che dice ma è un essere umano, ha diritto ad essere trattato con dignità come tutti, se la sua condizione non è compatibile con il carcere o la sua detenzione al 41 bis non è compatibile con il carcere, non è il caso di intervenire? Parliamo della mafia di Bernardo Provenzano tra pochissimo, anche con i vostri contributi. 800 24 0024. Eccoci qua, allora, le 8:36, come detto, cari ascoltatori, 800 24 0024, se volete intervenire in diretta. Vogliamo parlare di Bernardo Provenzano. Nei giorni scorsi sui giornali è uscita la notizia di un suo presunto tentativo di suicidio, ma al di là del fatto di cronaca di cui parliamo, vogliamo parlare di un uomo le cui sentenze in Italia dicono essere l'emblema della mafia, latitante per 43 anni, poi arrestato di fatto vicino a casa sua a Corleone nel 2006, da allora in carcere con regime duro di 41 bis. Vorrei capire che cosa vi suscita proprio come sentimenti, come sensazioni, il voler parlare di un uomo appunto identificato come l'emblema della mafia in Italia, un uomo per cui il capo, il procuratore nazionale antimafia Piero Grasso, ai microfoni della Zanzara, ha detto: se fosse morto non avrei di certo pianto. Ne vogliamo discutere con intanto l'avvocato di Bernardo Provenzano, Rosalba Di Gregorio. Avvocato, buongiorno e benvenuta. Buongiorno, grazie. Saluto anche una deputata del Popolo della Libertà che ha scritto un libro, si intitola Detenuti, incontri e parole dalle carceri italiane, edito da Sperling & Kupffer. Ha incontrato tantissimi detenuti eccellenti, tra questi anche ha visto Bernardo Provenzano in carcere. Si tratta dell'onorevole Melania Rizzoli. Buongiorno e benvenuta, onorevole. Buongiorno a voi e grazie dell'invito. Allora, io vorrei partire da un audio, avvocato Di Gregorio. Le vorrei fare riascoltare ciò che il figlio di Bernardo Provenzano di recente, in un'intervista sicuramente storica, sicuramente importante, un documento importante, ha dato a Servizio Pubblico. Si tratta di Angelo Provenzano, uno dei figli di Bernardo Provenzano, intervistato. Che cosa ha detto di recente sulla situazione della detenzione del padre? Sentiamolo. Oggettivamente sta scontando una pena. Se diventa incapace di intendere di volere, quindi incapace di poter scontare la pena, perché per tante altre persone è possibile che ciò avvenga, perché ci deve essere la discriminante Provenzano? Semplicemente perché lui si chiama Provenzano. Un detenuto eccellente. Prima di tutto è un detenuto. Gli sono venuti meno alcuni diritti, ma rimane sempre cittadino italiano. Poi sarà stato membro di Cosa Nostra, sarà stato capo. D'accordo. Ma stiamo parlando sempre di un essere umano. Io mi rendo conto che per molta gente si alza, si potrebbe pure alzarsi in questo preciso momento e dire sì, ma per quello che lui ha fatto merita questo ed altro. Me ne rendo perfettamente conto. A tutti questi dico, bene, se è così scomodo, qualcuno abbia il coraggio di istituire la pena di morte anche ad personam, ma che chi fa questo prende anche le sue responsabilità. Violenza genera violenza, quindi che cosa dobbiamo fare? Ci accaniamo. Allora, intervistato da Dina Lauricella, avvocato Di Gregorio, partirei proprio da qui, se si vuole, dalle parole forti. È il caso di dire, allora, si abbia il coraggio di dire istituiamo la pena di morte per Bernardo Provenzano? Vabbè, la frase è chiaramente provocatoria, il senso del discorso, che peraltro come senso io condivido in pieno, è questo. Cioè, lo Stato ha il dovere di reprimere il crimine, ha il dovere poi inflitto una sentenza ovviamente che sia scontata dal detenuto, ma le condizioni di detenzione sotto il profilo umano non possono farci paragonare noi Stato a quelli che sono i metodi di altre formazioni. In questa intervista Angelo Provenzano ha aggiunto a un certo punto: se qualcuno ha voglia insomma di violenza si siede al posto di mio padre, tanto è rimasto libero. Sì. Quindi il senso è proprio questo, cioè E nel momento in cui un soggetto è malato, nel momento in cui comunque un soggetto sta scontando una pena già col regime del 41 bis, non c'è motivo di non prendere in considerazione e provvedere di conseguenza quelle che sono le necessità di un soggetto che comunque è un paziente, cioè è una persona che ha delle patologie che vanno curate. Senta, all'interno del carcere, con certo. Le strutture. Sì, infatti in passato era stata anche diffusa questa idea, tra l'altro a lei attribuita, del pensare di togliere addirittura dalla detenzione in carcere Provenzano perché gravemente malato. Lei... No, qui c'è un equivoco di fondo. Io non ho altro rimedio se non quello di promuovere, non io, dico gli avvocati in genere, un'istanza di scarcerazione al fine di far fare una perizia medico-legale. Quindi per avere una perizia medica io ho fatto in un processo, un'istanza più di un anno fa, un'istanza di scarcerazione, e se l'idea fosse stata quella della scarcerazione naturalmente in quel processo, per quel capo di imputazione e per quella detenzione, Provenzano sarebbe già stato scarcerato perché la perizia è durata più di un anno, quindi la ricerca dei medici e poi la lettura, diciamo, l'analisi dei risultati e quindi il deposito della loro perizia è durato più di un anno. Sì. Si sa benissimo, cioè magari non il cittadino, ma insomma è normale che con tutto questo tempo a quel punto la Corte automaticamente avrebbe dovuto scarcerarlo. Sì, quindi è una questione tecnica, la questione, sì, era fare la perizia. Senta, le vorrei chiedere due cose flash prima di andare, sì, da Melania Rizzoli. La prima è questa: che ne pensa di Piero Grasso che dice non avrei certo pianto se fosse morto? Ognuno, dico, è libero di piangere chi vuole, non piango neanche io quando muore una persona che da un punto di vista affettivo è distante, e se dietro questo ci vediamo invece un'altra considerazione, cioè credo che Piero Grasso voglia dire non è una grave perdita per la società se muore un Bernardo Provenzano, credo che voglia dire questo. E su questo piano non c'ho nulla da replicare. Il problema è che non condivido della frase, semmai è quello a questo punto si penta. Il procuratore nazionale sa benissimo che le condizioni proprio cognitive del soggetto, neanche volendo, potrebbero consentirgli di pentirsi. Quindi diciamo che l'invito arriva un attimino tardi rispetto. È perché infatti ha aggiunto parli piuttosto, ma secondo lei non appunto è più in grado di parlare? Secondo me no. Per la situazione in cui è. E ha l'idea invece del suicidio? Non secondo me, secondo quelle che sono le certificazioni, sì, che ricaviamo dal diario clinico del carcere anche. Mentre perché per io quel non ho la presunzione certo di fare il medico. Mentre per quel che riguarda il suicidio o presunto suicidio, lei che ne pensa? Beh, io penso che sarebbe prima corretto, prima di parlarne, inquadrarlo come suicidio, come tentativo, come simulazione o quant'altro, ho letto di tutto, ho sentito di tutto, prima sarebbe corretto vedere la relazione che viene dal carcere e appresso a questa fare una seria indagine. Ho promosso appunto per questo, presentando due istanze, una verrà presentata oggi stamattina appena finiamo alla Procura di Palermo e una alla Procura di Caltanissetta affinché loro facciano l'indagine, facciano l'inchiesta per chiarire per cosa capire è successo. Cosa è successo. Onorevole Melania Rizzoli, perché dobbiamo in qualche modo, e lei lo ha fatto anche nel libro, andare nelle varie carceri italiane, incontrare i vari detenuti eccellenti, tra questi anche Bernardo Provenzano, ma ce ne sono anche altri che magari ci ricorderà, perché dobbiamo in qualche modo anche mostrare una sorta di empatia verso un personaggio come Bernardo Provenzano? Ma io ho descritto la mia visita nel carcere di Parma a Bernardo Provenzano come ho descritto quella di tanti altri, e nelle mie prerogative di parlamentare ci sono quelle appunto di entrare nelle carceri e verificare le condizioni dei cittadini che sono affidati allo Stato, che hanno commesso reati ma sono affidati allo Stato. In quanto medico io principalmente vado a vedere le condizioni cliniche e mediche, e quando ho visto Provenzano sono rimasta molto stupita, prima di tutto perché ho trovato un uomo evidentemente malato, quasi irriconoscibile rispetto alle immagini dell'arresto, avrà avuto un calo ponderale di circa 20 kg, tant'è che gli occhiali erano addirittura larghi sul volto. E poi, infatti, io descrivo che il mio primo istinto di medico sarebbe stato quello di mettergli una flebo e farlo sdraiare a letto. Insomma, poi conosco perché ho preso visione della documentazione documentazione clinica le condizioni effettive di salute di Bernardo Provenzano. È un ammalato di cancro, e questo è notorio, non rivelo nessun segreto professionale. E poi dalla mia visita io l'ho trovato addirittura disorientato nel tempo e nello spazio, delle volte non capiva nemmeno le mie domande e io non ho avuto l'impressione che simulasse. Quando sono arrivata nella sua cella l'ho trovato che mangiava con gesti lenti, proprio tipici della senilità aggravata dalla malattia, ed ogni piatto che aveva, un primo, un secondo e la frutta, erano infilati in una bustina di plastica trasparente, forse la stessa che lui ha usato per il tentativo, sì, o il presunto tentativo di suicidio. Ecco, però questo è il punto interessante a cui voglio ripartire dopo l'informazione sul traffico, magari sentendo anche qualche ascoltatore, perché ovviamente si affastellano le domande anche più scomode e i sentimenti, le girerò subito all'avvocato di Gregorio, li può immaginare anche lei, i sentimenti proprio anche di rabbia e di fastidio delle persone che dicono: ma perché dobbiamo occuparci umanamente di una persona che è accusata di avere sulla coscienza e nelle proprie mani invece la vita tolta a centinaia e centinaia di persone in Italia? Tra poco. Allora, com'era presumibile, i messaggi sono di questo tenore: nessuna pietà, pena di morte, uno di meno, io non l'avrei fermato, eccetera. Ma sentiamo anche qualche ascoltatore. Siamo con l'avvocato di Bernardo Provenzano, l'onorevole Melania Rizzoli. Carlo da Como, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica, Carlo. Milan, prima di tutto complimenti anche per quello che sta facendo con Giannino, ecco, siete la nostra voce. Sì, dica. Niente, io guardi, sarò che brutale, però è una persona che finché è stato latitante ha fatto quello che ha voluto e lo sappiamo tutti, è inutile sottolinearlo. Quando è stato preso non ha collaborato e niente. Adesso la dottoressa dice che è una persona che non riesce a parlare tutto quanto, poi tenta suicidio, cioè ci sono delle congruenze che io non riesco a capire. Morale, sarò anche brutale, sarò anche quello, però sapendo tutti, e ovviamente anch'io, quello che lui ha fatto, sì, e ha fatto fare, ha fatto comunque, lo sa, è inutile sottolinearlo, guardi, io avrei dato una mano, va bene? Avrei era una mano. Persona che costava meno allo Stato, poi benissimo, la gente pensi che... No, ma si fermi qui, è chiarissimo, non deve aggiungere tante parole, è molto chiara la sua posizione. Carlo, grazie. Giuseppe da Napoli, buongiorno. Buongiorno Milan, guardi, sì, lei la mette sul piano dei sentimenti, io mi sono guardato dentro attentamente e devo dire che l'unica cosa che riesco a provare è un'indifferenza quasi glaciale nei confronti della persona, anzi del personaggio, perché la persona non la conosco. Diciamo forse più qualche risentimento ce l'ho nei confronti di chi lo difende, però abbiamo tutti quanti diritto a un avvocato in Italia, per cui insomma... Quindi indifferenza glaciale, grazie Giuseppe. Matteo da Verona, buongiorno. Sì, buongiorno, io volevo cogliere l'occasione, l'invito del figlio di Provenzano, facciamo la pena capitale, ma non solo per i reati diretti di mafia, 'ndrangheta e camorra, ma anche per connivenza e collusione, e mi si libera il Sud che è una meraviglia mondiale, è una cosa benissima, andiamo avanti così. Bene. Grazie Matteo, stia contento così. Avvocato Rosalba di Gregorio, allora, io guardi, ma sono tantissimi che si stanno chiamando, mandano messaggi al 349-238-6666, se vuole poi li girerò. Cose alle quali, accuse alle quali e invettive alle quali lei è abituata, immagino, a rispondere, con cui deve fare i conti ogni giorno. Però che risposte si danno a queste persone che rappresentano una larga fetta degli umori della popolazione italiana, eh? Beh, vede, io, ed è questo il motivo per cui sono innamorata della mia professione, io ritengo che la differenza fondamentale, a parte poi tutte quelle particolari, fra la mafia o comunque organizzazioni del genere e lo Stato sia che nella prima vige la violenza, la vendetta, nella seconda, cioè nella seconda formazione, quindi nello Stato italiano, perché così ci dicono le leggi, il rispetto della nostra Costituzione. Quello che ci differenzia appunto dai mafiosi è proprio questo. E allora nel momento in cui si è ottenuta una carcerazione e si sta scontando una carcerazione, dice sempre la Costituzione che il diritto alla salute rimane anche per queste persone, e il diritto alla salute mi pare che preveda anche le cure, dico, quindi non è non è nulla di particolare, non si sta, si sta probabilmente enfatizzando il personaggio perché se lo merita dal punto di vista giudiziario, in questo caso non è un merito ma un demerito, però come cittadino che sta male e che è affidato allo Stato, lo Stato ha il dovere, perché così si è detta la, queste sono le regole che lo Stato si è dato, ha il dovere di curarlo, punto. Detto questo, non potevo non cogliere nell'intervento della seconda persona che è intervenuta appunto ai suoi microfoni il fatto che c'è più rancore nei confronti dell'avvocato. Lo so, è un qualcosa con cui convivo da quasi 30 anni, avendo sempre assistito personaggi diciamo un attimino così sgraditi. Sì, e comunque sì, non è, lei assiste anche altri mafiosi o a condannati per mafia? Non allora, so. Io non assisto mafiosi o condannati per mafia, io assisto persone per le quali si celebrano processi nei quali l'imputazione può essere anche di mafia, può essere anche di omicidio di mafia. Alcuni sono stati condannati, come anche Provenzano. Evidentemente, Alcuni sono stati condannati, quindi per questo dicevo persone condannate. Certo, ma nel momento in cui tu intervieni come avvocato, intervieni in un processo non dove c'è già una condanna. Questo sì. È un altro processo. Però avvocato, mi faccia chiedere questa cosa all'onorevole Rizzoli. Onorevole Rizzoli, non è che c'è troppa attenzione per Caino e meno per Abele in Italia, per cui c'è questo perverso? Ma no, assolutamente, no. Perché è il nome di Bernardo Provenzano che fa notizia. Ma qualunque detenuto in stato di malattia viene assistito con gli stessi diritti di tutti i cittadini italiani, anche reclusi. Ci mancherebbe altro che non avesse le cure necessarie. No, ma voglio dire, ma anche l'attenzione spasmodica verso chi ha compiuto poi dei crimini o chi è in carcere, e la domanda che spesso si fa è, dice, vabbè, ma invece chi è che tutela le vittime delle persone che sono detenute in carcere? Ma certo, il dolore delle vittime e la perdita dei familiari delle vittime, quello è un dolore perpetuo, direi addirittura che è una vita interrotta e sono crimini gravissimi, ma ciò non toglie che se un cittadino italiano che ha commesso quei crimini ed è affidato allo Stato, nella nostra Costituzione c'è che nei momenti di difficoltà, soprattutto medica, vanno tutelati allo stesso modo di tutti gli altri. Fatemi sentire Antonella dalla provincia di Imperia, con cui vorrei chiudere. Antonella, buongiorno. Sì, buongiorno. Io non posso essere pietosa, assolutamente. Premetto che sono una donna siciliana e che so quello che dico. Io vedo i risultati della mafia nel nostro paese. Tanto per cominciare io vorrei sentire le condizioni di disagio di salute di chi è sottoterra grazie a tutta questa gente, compreso Provenzano. Per quello che mi riguarda, Provenzano, l'unico atto di dignità della sua vita, di tutta la sua vita, che potrebbe fare è suicidarsi. E noi potremmo solo essere contenti di questo se questo avvenisse, e non parlo perché sono una donna cattiva, sì. Assolutamente. La cosa più importante, scusate, fatemi finire perché questo è veramente importante. A 10 secondi però, perché devo chiudere, Antonella, sì. Dica. Le dico subito una cosa, quello che è veramente importante è che ci vogliono delle leggi senza pietà. Queste leggi senza pietà dovrebbe farle la politica. Su questo si fermi, perché altrimenti sforo. La ringrazio, così come ringrazio l'avvocato Rosalba Di Gregorio e l'onorevole Melania Rizzoli, di cui ricordo il libro Detenuti. Verde Dentro, nuova elettricità per il tuo lavoro. Repower, l'energia che ti serve. Vi ha presentato 24 Mattino.